E quindi nuovamente la nostra sigla dei Modern Jazz Quartet, la Ronde, ci accompagna in Pinacoteca, almeno l'apertura, per dare il via a questo percorso artistico di approfondimento dedicato a Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino. Nasce a Cento il 2 febbraio del 1591, un periodo importante per la nostra città. Scompare a Bologna il 22 dicembre del 1666. Scusate, eh? In continuità, come dicevo, il periodo è importante perché prima di lui, ovviamente potrei citare i Carracci, Guido Reni, mi viene in mente così Albani, ecco, un altro grande autore, e tanti altri, insomma, che hanno costituito la serie dei pittori emiliani, nonché tra i più anche propositivi per quanto riguarda il dialogo con la Roma barocca. Ha contribuito con tante opere a uno sviluppo di tale movimento artistico su tutto poi il panorama e il palcoscenico italiano, con una un'evidenza sulla nostra città, ecco, con artisti che ho già citato, che hanno portato avanti questi percorsi. Beh, Guido Reni e i Carracci. Anche se adesso è importante, è sempre stata un pochettino dibattuta Cento, tanto più che Cento ha una sua identità, secondo me, anche se geograficamente tra Bologna e Ferrara, questa è una possibilità per dare uno sguardo papale e Estense, la grande officina Estense. Lui era ammiratore, figuriamoci, di Dosso Dossi, certo, e questo si nota, e allo stesso tempo ha una scuola vicino a quello che è stato un passato felsinio. Ecco, questo motivo di dialogo per me è veramente un valore aggiunto per il Guercino, di cui ho una passione. Il Guercino, chiamato in tal modo purtroppo perché da bambino ha avuto un incidente all'occhio destro, da bambino, da infante, addirittura ancora in culla, un incidente l'ha portato ad avere questa malformazione, da lì questo nomignolo non certamente bellissimo, ma che purtroppo in seguito a quello che è capitato al giovanissimo Giovanni Francesco Barbieri l'ha portato ufficialmente poi a essere il Guercino. Non è stato uno scontro, dicono le cronache dell'epoca, è stata un'entrata improvvisa, intanto che lui stava dormendo profondamente, lui spaventato ha aperto gli occhi, ha colpito dalla luce, lui ancora in fasce, stralunato, apre gli occhi spaventato da questa sveglia improvvisa e purtroppo la pupilla rimane ferma in maniera anomala. Pensate che lui, nonostante questa, diciamo, magari chissà, si dice che a volte si vede qualcosa che uno sguardo normale non riesce a vedere, chissà, adesso non voglio addentrarmi in, voglio cercare di portare anche in un incidente, in una sventura qualcosa che può essere d'ausilio, chissà, perché se ci pensiamo un attimo, lui già a 6 anni disegnava divinamente, disegnatore incredibile, tanto più che nonostante le difficoltà economiche il padre comincia a interessarsi per poter dare sviluppo a questo incredibile talento di un giovanissimo Guercino, ormai già Guercino purtroppo per lui. Andò a dipingere a Bastiglia, un paese vicino Modena, da un modesto artista. Come vi ho detto, non c'erano tante possibilità. Dipingeva con la tecnica del guazzo, per così dire. Nella sua casa si stabilì per alcuni mesi, potendo però apprendere, e come commentano i biografi, solo la conoscenza e la mescolanza dei colori, cioè quelli che noi diremmo i rudimenti, no? Considerando però che il figlio mostrava, come vi ho detto, un talento che tuttavia occorreva occorreva educare, però non bastavano solo i rudimenti, no? E rafforzare. Poco più tardi, all'età già di giovinetto, 16 anni, il padre lo fidò a un altro pittore di cento, considerato impossibile da raggiungere, ma che allo stesso tempo è stato ampiamente superato dal barbiere. Tale Benedetto Gennari, che lo tenne con sé, lo si affeziona, dice: questo è veramente un talento, guardate che questo diventa meglio di me, sì, mi considerate un fenomeno. Ma lui, hai voglia, questo è addirittura, pur essendo così giovane e purché rimanga nel suo laboratorio, gli dà per quello che può un piccolo stipendio. E anche per quello che io ne sono molto affezionato, a parte la provenienza che mette insieme, insomma, tradizione sia felsinea che allo stesso modo quella dell'Officina Estense, no? Da Dosso Dossi a Bonomi, fino ad arrivare a quello che è il percorso in seguito in maniera sintetica ai Guido Reni, ai Carracci, che è il velluto guercino, è per quello anche che così do un aspetto non troppo negativo a questo strano incidente che è capitato al barbieri, perché veramente è guardare del velluto, osservare, ammirare queste opere bellissime che saranno in Pinacoteca, alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, mi pare, adesso dirò, ecco, fino all'11 febbraio. Adesso ho collegato un pochettino tutte le date, non sempre così immediato riuscire a mettere insieme nozioni e date. Le due curatrici, Barbara Gelfi e Raffaella Morselli, parleranno un po' del percorso in mostra, delle opere, anche di alcuni aspetti della vita, poi già per quanto riguarda il Guercino in seguito a questi primi motivi che vi ho dato di percorso, fino ad arrivare ad avere una vera e propria impresa dedicata all'arte. E concluderemo con Maria Luisa Pacelli, che ci parlerà del dialogo che c'è tra la Pinacoteca e questi percorsi d'arte legati alle varie esposizioni nella prestigiosa Pinacoteca di Bologna. Cominciamo per Guercino nello studio e siamo in compagnia di Raffaella Morselli e Barbara Ghenti, curatrici dell'esposizione. Iniziamo allora. Cosa rivela lo studio del Guercino? Lo studio del Guercino rivela a noi, e spero anche ai visitatori di questa mostra, finalmente come si componeva la bottega di Guercino, come era suddivisa nel primo periodo centese e in quello poi bolognese, la differenza tra la bottega e lo studio a Bologna e le varie apporti di allievi, parenti, cugini, fratelli, insomma una grande azienda per tre generazioni si rincorre per tutto il 600. Un periodo esteso e quanto mai importante. Allora, adesso non chiedo un identikit di tante presenze, però insomma, chi era Guercino? Allora, Guercino è stato uno dei massimi pittori del 600 emiliano, e non solo emiliano, anche nazionale. Ma la cosa interessante è che aveva un atelier frequentato da molti aiuti che abbiamo cercato di, per i quali abbiamo cercato di definire un identikit, un profilo, e abbiamo cercato anche di capire che cosa facevano esattamente all'interno di questo atelier, che tipo di produzione si promuoveva, e quindi i collaboratori di Guercino sono specialisti nel ritratto, nel paesaggio, nella natura morta, e questo per diciamo soddisfare le richieste del mercato. Quindi c'è anche questo tema che è molto importante: il collezionismo, il mercato, la richiesta di prodotti particolari che Guercino riusciva sempre ad accontentare. Quindi, oltre che un grande artista, è stato anche un grande imprenditore. scelto Art Blakey, ma anche i Jazz Messengers nella parte appunto portata come frontman da Art Blakey in precedenza dal pianista Horace Silver. Ho scelto Art Blakey per l'aspetto così incisivo, così diretto, piacevolmente immediato e nello stesso tempo raffinato, come ho detto, il velluto per il Guercino. Gli artisti, comunque, troviamo due ai fiati che sono assolutamente dei grandissimi, come Freddie Hubbard alla tromba e Wayne Shorter al sax tenore, che qui stiamo ascoltando in questo solo già moderno per il disco Free for All di Art Blakey, che è stato scritto intorno al 1960. Un hard bop già illuminato, pur restando nel gusto. Free for All, edizioni Blue Note, a proposito di grandi imprese, ma anche un gusto particolare. Il gusto, beh, lo troviamo in questo brano di Bobby Timmons, che è una bossa quanto mai piacevole, seppur strutturata in maniera e modalità quanto mai forbita. I'm So Tired. A tra poco. Nato da umili origini per quanto riguarda questo suo soggiorno a Bastiglia, poi ritornato a Cento, dove riusciva a prendere un misero stipendio da Benedetto Gennari, non certamente un artista di cui insomma ha restato il nome nella storia, ma soprattutto è rimasto in quanto ha avuto la possibilità di tenere e di portare avanti la formazione di Barbieri. Poi lui stesso ammette: qui bisogna crescere ulteriormente, e quindi deve andare a Bologna. A Bologna trova soggiorno addirittura a contratto per, anche in questo caso, una cifra che più che una cifra è una corrispondenza, a dozzina, per una somma di denaro, che una quantità di grano e una castellata di vino. A dozzina, cioè, vuol dire a pensione, ecco, a vitto. Beh, a Bologna è stato importante il soggiorno perché ha permesso al giovane apprendista di studiare, soprattutto oltre che i consigli di crescita dovuti ai pittori che ha conosciuto, lui oltretutto resta incantato dalle tele dei Carracci. E lui stesso dirà di aver tratto profitto dallo studio della conversione di San Paolo, il capolavoro di Ludovico Carracci, nella chiesa di San Francesco, e l'altra tela della Madonna col bambino e tanti altri lavori. L'adolescente allora, Guercino, non si stancava di osservare, di studiare, si arrampicava su una scala, da una scala all'altra, per studiare sempre più da vicino questi lavori che lo incantavano, finché appunto vi è una prima conferma. Tra il 1612 e il 1617 riesce a ottenere le prime commissioni sue. Importanti canonici di Mirandola assegnano dei lavori che poi saranno dei successi, e addirittura inizia ad avere somma di denaro, una discreta somma di denaro, 25 scudi l'uno, e la conoscenza finalmente del Carracci, che non si limita semplicemente a tesserne le lodi, ma il pittore scrisse: per quanto riguarda gli elogi al Guercino, è un gran disegnatore, felicissimo coloritore, è mostro di natura, è miracolo da far stupire chi vede le sue opere, non dico altro. Scrittura è di Bobby Timmons, la realizzazione di Art Blakey insieme ai Jazz Messenger. Una formazione variabile, come del resto era variabile l'impresa, poiché col susseguirsi degli anni riesce a mettere in piedi il Guercino con grande talento anche imprenditoriale, riuscendo a distribuire il lavoro anche ad amici, giovani artisti e conoscenti. E lo studio del Guercino è anche, diciamo, dipanato all'interno della Pinacoteca in questo modo, grazie a Barbara Gelfi e Raffaella Morselli, che sono state intercettate immediatamente prima della conferenza stampa da me per questa breve conversazione. E di un aspetto di cui vi vorrei parlare, anche se è difficile parlarne radiofonicamente, in quanto è visiva l'emozione nel trovare un grafico sul quale hanno lavorato tantissimo per cercare di dare un'identità, anche una sorta di organigramma di questa impresa, citandone le opere e la guida all'interno della sede espositiva della Pinacoteca. Mi è venuto in mente il visual data della lettura del Corriere della Sera. Ecco, con protagonista Guercino e la sua impresa, e lo studio è stato riportato in Pinacoteca con tanto di riferimento alle opere esposte. Entriamo in mostra. Com'è suddivisa l'esposizione? Allora, l'esposizione è suddivisa in tre sezioni principali. È quella rappresentata nella prima sala, la sala numero 25 della Pinacoteca, nella quale sono esposti i capolavori giovanili del maestro, e nella quale si trova anche un tavolo touch nel quale è possibile consultare i risultati delle indagini diagnostiche realizzate dall'Università di Bologna nel 2019, che ci danno conto di come lavorasse il Guercino, cioè il disegno preparatorio piuttosto che lo stato di conservazione dei manufatti. Si tratta di un materiale inedito che noi presentiamo per la prima volta e che dà un quadro generale sul funzionamento dell'atelier. Quante opere troviamo in mostra? Sono, dovrebbero essere 22. Certo, intanto c'è un bellissimo visual data per chi non è tanto abile come me per sì, quanto sì, riguarda gli screen touch e quant'altro, però possiamo anche ammirare questa possibilità che è un valore aggiunto. Adesso magari la mettiamo in immagine per il podcast della trasmissione, però è molto esplicativa. Cosa rappresenta? Ci abbiamo lavorato tanto. Sì, immagino, è per quello che chiedo la descrizione, esatto, perché è bella. Perché noi stesse che siamo specialiste di Guercino e dei suoi allievi a volte facciamo fatica a capire, stai parlando di Bartolomeo Gennari Junior, Senior, e quindi abbiamo dovuto rendere in 3D una tabella che esplicasse chiaramente quando entrano e quando escono i vari allievi e parenti, e soprattutto dove, se a Cento o a Bologna. Non è stato, è stato un esperimento che però, visto adesso, mi sembra che funzioni. Certo, infatti ne sono rimasto molto così coinvolto. di emozione, mi è arrivato un bellissimo regalo per il 2 novembre e, beh, sono un pochettino emozionato. Tra l'altro ne ho parlato di questo lavoro In Memoriam, i cimiteri e le storie che li abitano di Giulia Depentor per Edizioni Feltrinelli. L'ho portato nei magazine la scorsa puntata. Ok, torniamo lucidi. Per la esposizione in Pinacoteca, che sarà fino all'11 febbraio, dedicato allo studio del Guercino, o Guercino nello studio, come riporta il titolo ufficiale. Le voci di Barbara Gelfi e Raffaella Morselli per addentrarci in questo percorso di conferma. Ecco, vi ho dato alcune note biografiche per quanto riguarda la formazione. Qui abbiamo già una conferma anche imprenditoriale. Gran lavoratore, oltretutto proveniente da umili origini, in una storia che all'interno dell'arte è anche grande esempio di testardaggine positiva nel voler riuscire, grazie ovviamente anche a un talento innato per il disegno, per l'osservazione. E con questo brano, io aggiungo anche con la dolcezza, questo brano Love, Like Someone in Love, è una tra la ballad e la song, è uno standard jazz di Burk Bannhausen che è stato interpretato, oltre che dai Messengers di Art Blakey, anche dalla formazione che abbiamo trovato all'Hotspot, per questo jazz club altro che prestigioso, con il duo alla tromba Booker Little e al contralto Eric Dolphy. Ed è un brano di una bellezza e di uno, anche uno struggimento, una dichiarazione d'amore continua. Like Someone in Love, qui da Art Blakey and the Jazz Messengers. Ritroviamo Bobby Timmons al piano, prima l'assolo di tromba di Lee Morgan. Questo visual data, questo schema, anche per chi ha incapacità, non è molto attratto dalla parte digitale all'interno dei musei affatto. E quindi vi è questo grafico molto esaustivo e completo che dà la possibilità, tanto più che ho interrotto alla prima sezione, nella seconda parte in mostra. Daremo la parola alle curatrici di Guercino nello studio per continuare il nostro percorso. Tra pochissimo in mostra 103.1 Radio Città Fujiko, la grande arte per voi.

quasi in conclusione, per la sigla ho tenuto un altro brano, questi due grandi brani, The Night in Tunisia e quello che concluderà la rubrica in mostra, conterrà la conversazione con Maria Luisa Pacelli, che ci parlerà in sintesi di quella che è la relazione tra Pinacoteca e il Guercino per quanto riguarda questa esposizione che sarà fino all'11 febbraio nella prestigiosa sede felsinea della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Maria Luisa Pacelli, la Pinacoteca di Bologna, sempre attivissima, ci regala anche questa esposizione e questa bellissima sorpresa. Come arriva Guercino? Come nasce quest'idea? Ma l'idea nasce da un invito della città metropolitana di Bologna a partecipare a un vasto progetto di valorizzazione del Guercino in occasione della riapertura della Pinacoteca di Cento, che attendiamo a fine novembre. E partendo questo grande progetto sull'artista e avendo noi in collezione delle opere veramente straordinarie, importantissime, ci siamo sentiti di dover aderire al progetto, quindi abbiamo sviluppato una mostra attorno alle opere del museo con degli inserimenti che completano, diciamo, un racconto. E l'abbiamo inserita, come facciamo oramai, è il nostro modo, no? di presentare delle mostre, l'abbiamo inserita dentro il nostro percorso espositivo, perché quello che si vede prima e quello che si vede dopo è in continuità in certo. Ogni caso. E vi è anche una bella presenza estesa di famiglia. Sì, oltre a Guercino è stata l'occasione per presentare anche le opere dei suoi allievi e collaboratori, perché il focus della mostra è sull'attività dello studio, uno studio che tra Cento e Bologna fu una sorta di impresa con un taglio, diciamo, imprenditoriale inedito per l'epoca, ma al di là di questo aspetto, che oltre al maestro fece fiorire tanti pennelli significativi a partire dal fratello, celebre naturamortista, e quindi abbiamo voluto anche dare, diciamo, testimonianze e documentazione dell'attività dello studio nel suo complesso. Il talento del Guercino, come dico spesso per il jazz, in cui riconosco da determinati percorsi gli assoli dei musicisti, in un'opera del Guercino riconosciamo nel... Anche il talento del Guercino è un talento assolutamente immediato, è una dote innata che poi lui ha coltivato con grande intelligenza. Pensiamo che non disegnava sulla tela, disegnava prima, faceva degli schizzi preparatori dove studiava l'idea della composizione e poi andava di getto. E quello di cui si stupivano anche i suoi contemporanei era l'unione della qualità e la rapidità di esecuzione. Allora, durata dell'esposizione? L'esposizione durerà fino all'11 febbraio. Grazie e buona giornata. Grazie, grazie a te. The morning. Potrebbe essere un mugolare di piacere, ecco. Infatti è molto sensuale questo brano, oltre che essere bellissimo, di Art Blakey, di cui abbiamo ascoltato coi Jazz Messenger brani e standard tra i più conosciuti. Quindi, mano al portafoglio. Allora, il listino è questo: per le teste il Guercino voleva 25 ducati, per rappresentare una mezza figura 50 ducati, per una figura intera 100 ducati. Ecco, così avete un'idea un po'. Oh, se volete, non so il cambio in euro, quello non... Ho già detto che la casa studio del Guercino si trova tra l'altro vicino alla Pinacoteca, in via Santalò, l'amore possamalò si dice a Bologna, quindi una particolarità in più, in via Santalò al numero 3. Appuntamento a domani, andiamo in scena. Ringrazio le due curatrici, Maria Luisa Pacelli, direttrice della Pinacoteca, fino all'11 febbraio. Questo lavoro assolutamente completo sul Guercino nello studio, oggi in mostra. Domani in scena, io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto sui 103.1. Vi lascio con Edipo Enciclopedico dopo la pubblicità, Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e poi dalle 10.30 alle 12.30 con il grande rock di This is a Rock and Roll Radio, Andrea Gozza e Angela Zocco. E dal vostro William Piana un caloroso abbraccio, un buon giovedì, appuntamento a domani per la vigilia di weekend. Ciao a tutte, ciao a tutti!